Che mercoledì, ragazzi! Oggi sarà una giornata piena di consegne. Ma niente panico! Con Lookout ho noleggiato il furgone giusto per muovermi in maniera agile nel traffico. Sono andato a Napoli, in via Diocleziano 80, e ho scelto modello e capienza. Basta la patente B. Con Lookout, noleggio alla velocità della luce. Scopri di più su lookoutrent.com. La locanda della tormenta presenta Conan, la valle delle donne perdute. Buon ascolto. Il tuono dei tamburi e dei corni di zanna d'elefante era assordante, ma negli orecchi di Livia il clamore sembrava solo un brontolio confuso, smorzato e lontano. Giaceva su un letto di cuscini nella grande capanna, in uno stato a metà strada fra il delirio e la semicoscienza. I rumori e i movimenti esterni la sfioravano appena. Ma nell'occhio della sua mente, per quanto confusa e caotica fosse l'immagine, si stagliava ancora con spaventosa certezza la figura ignuda e tremante di suo fratello, le sue cosce sporche di sangue. Contro un confuso scenario da incubo di fosche figure e di ombre che si intrecciavano, la sua forma bianca si delineava con chiarezza spietata e terribile. L'aria pareva ancora pulsare del suo urlo di dolore, mescolato scenamente al suono di risa demoniache. Non era cosciente delle proprie sensazioni come una persona separata e distinta dal resto del cosmo. Era sommersa in un grande abisso di dolore. Lei stessa non era altro che dolore cristallizzato e incarnato. E giaceva senza pensiero o movimenti coscienti, mentre fuori i tamburi tuonavano, i corni squillavano, voci barbariche si alzavano in canti spaventosi, ritmati dal suono di piedi scalzi che pestavano il suolo e dallo schiocco, meno forte, di palme contro palme. Ma infine la coscienza individuale cominciò a filtrare nella sua mente impietrita. Dapprima ci fu l'opaco stupore di non aver ancora subito ferite fisiche. Accettò quel miracolo senza ringraziamenti. La cosa sembrava priva di importanza. Muovendosi meccanicamente, si alzò a sedere sui cuscini e si guardò intorno confusa. Le sue estremità fecero timidi tentativi di movimento, come se rispondessero alla cieca ai centri nervosi che si risvegliavano. I piedi scalzi strisciarono nervosamente sul pavimento di terra battuta. Le dita si aggrapparono convulsamente all'orlo della corda sottotunica che costituiva il suo unico indumento. Impersonalmente ricordò che una volta, le pareva tanto, tantissimo tempo prima, mani rudi le avevano strappato di dosso le vesti e lei aveva pianto di paura e di vergogna. Era strano adesso pensare che un torto così piccolo le avesse procurato un così grande dispiacere. La dimensione degli oltraggi e delle vergogne era soltanto relativa, dopo tutto, come per ogni altra cosa. La porta della capanna si aprì ed entrò una donna, un'agile creatura felina, il cui corpo sottile luccicava come ebano levigato, vestito soltanto di una fascia di seta attorno ai fianchi. Il bianco degli occhi rifletté le luci dei fuochi all'esterno quando lei li roteò con aria crudele. Portava un piatto di bambù pieno di cibo, carne fumante, yam arrostito, gran turco, dure pagnotte di pane locale e un recipiente d'oro battuto, pieno di birra agli arati. Posò tutto sul letto, ma Livia non ci fece caso. Rimase seduta, guardando con occhio vacuo la parete opposta, alla quale erano appese stuoie di bambù. La ragazza rise con un lampeggiare degli occhi neri e dei denti bianchi, mormorando con disprezzo un'oscenità e accennando beffardamente una carezza che era più grossolana delle parole. Si voltò e uscì dalla capanna. Il movimento dei suoi fianchi esprimeva più insolenza di quanto una donna civile potrebbe esprimerne con gli insulti. Né le parole della ragazza né le sue azioni avevano toccato la superficie della coscienza di Livia. Le sue sensazioni erano ancora tutte rivolte al proprio io interiore. Le immagini che ancora vedeva con l'occhio della mente erano così vivide che il mondo visibile era un panorama irreale di ombre e fantasmi. Meccanicamente mangiò il cibo e beve la birra, senza sentirne il sapore. E sempre meccanicamente, dopo un poco, si alzò e attraversò barcollando la capanna per guardare attraverso gli interstizi dei bambù. Era stato un improvviso cambiamento nel ritmo dei tamburi e dei corni ad agire sopra qualche oscura parte della sua mente e a spingerla a cercarne la causa, senza un preciso proposito. Dapprima non riuscì a capire ciò che vedeva. Tutto era caotico e oscuro. Figure che si muovevano e si mescolavano contorcendosi. Macchie in forme di nero che si stagliavano contro uno scenario rosso sanguigno che brillava cupamente. Poi azioni e oggetti assunsero le giuste proporzioni e scorse uomini e donne attorno ad alcuni fuochi. La luce rossastra scintillava su ornamenti d'argento e d'avorio. Piume bianche si agitavano, figure nude avanzavano con passo solenne e si fermavano, profili intagliati nell'oscurità e contornati di rosso. Su uno sgabello d'avorio, fiancheggiato da giganti con acconciature piumate e perizomi di pelle di leopardo, era accosciata una figura grassa, terribile, repellente. Una figura simile a un rospo che puzzava dell'umidore putrescente della giungla e delle paludi di notte. Le mani grassocce della creatura posavano sull'arco lustro del ventre. Il collo era un rotolo di grasso che pareva spingere in alto la testa ovoidale. Gli occhi sembravano carboni scintillanti su una piattaforma nera. La loro stupefacente vitalità smentiva l'aria inerte del grosso corpo. Quando posò gli occhi su quella figura, la ragazza si irrigidì e si tese, mentre la vitalità riprendeva a percorrere il suo corpo. Da un automa senza mente, si mutò di colpo in carne viva e senziente, dolorante e bruciante. Il dolore fu sommerso dall'odio. Un odio così intenso da diventare dolore a sua volta. Si sentì dura e fragile, come se il suo corpo si fosse trasformato in ferro. Sentiva l'odio scorrere quasi tangibilmente lungo la sua linea di visione. Le sembrò strano che l'oggetto su cui era concentrata la sua emozione non cadesse morto dallo scranno intarsiato solo a causa dello sforzo del suo odio. Ma se Baiyui, re di Bacala, provò qualche turbamento psichico a causa della concentrazione mentale della sua prigioniera, non lo diede a vedere. Continuò a riempirsi la bocca da rospo, con manciate di gran turco raccolte da un recipiente che una donna inginocchiata sorreggeva davanti a lui, e ad osservare un largo varco formatosi tra la folla dei suoi sudditi, quando questi si erano scostati per lasciare libero il passaggio. Lungo quel passaggio, apertosi tra i neri corpi sudati, probabilmente sarebbe giunto un qualche personaggio importante, a giudicare dal clamore stridente di tamburi e corni. E mentre Livia guardava, il personaggio giunse. Una colonna di guerrieri che marciava in fila per tre si diresse allo scranno d'avorio. Una spessa linea di piume ondeggianti e lance luccicanti fra la folla variopinta. Alla testa dei lancieri d'ebano camminava un'alta figura e Livia sobbalzò violentemente nel vederla. Il suo cuore sembrò fermarsi, poi ricominciò a battere più forte, quasi fino a soffocarla. L'uomo si stagliava nitidamente contro quello scenario scuro. Era vestito al pari dei suoi seguaci con un perizoma di pelle di leopardo e un'acconciatura di piume. Ma era un bianco. E certamente non avanzò fino allo scranno d'avorio come un supplice o un subordinato. Un silenzio improvviso cadde sulla folla quando l'uomo si arrestò davanti alla figura accosciata. Livia sentì la tensione, anche se solo oscuramente sapeva che cosa significasse. Per un momento Baiyui rimase ancora seduto, allungando il collo verso l'alto, simile a un rospo gigantesco. Poi, come spinto a dispetto dalla sua volontà, dallo sguardo fermo dell'altro, scese dallo scranno e rimase in piedi, facendo ciondolare in modo grottesco la testa rasata. Di colpo, la tensione si spezzò. Un grido tremendo si alzò dagli uomini ammassati. Poi, a un gesto dello straniero, anche i suoi guerrieri alzarono le lance e fecero il saluto reale a Re Baiyui. Chiunque fosse, Livia fu certa che il nuovo venuto doveva essere davvero potente in quella terra selvaggia se Baiyui, di Bacala, si alzava per porgergli il benvenuto. E potere significava prestigio militare. La violenza era l'unica cosa che quelle razze feroci rispettassero. Da quel momento in poi, Livia rimase con gli occhi incollati alla fessura della parete di bambù, intenta a osservare lo straniero. I suoi guerrieri si mescolarono con i Bacala. Cominciarono a danzare, ingozzarsi, scolare birra. Lo straniero, insieme con alcuni sottocapi, sedette accanto a Bayui e ai notabili dei Bacala, a gambe incrociate sulle stuoie, e prese a mangiare e a tracannare. Livia vide che anche lui infilava la mano nei pentoloni assieme agli altri e beveva nei recipienti dai quali beveva anche Bayui. Ma notò che gli era accordato il rispetto dovuto a un re. Poiché il nuovo venuto non aveva scranno, Bayui rinunciò al suo e si sedette sulle stuoie assieme all'ospite. Quando veniva portato un recipiente di birra, il re di Bacala lo assaggiava appena, per poi passarlo all'uomo bianco. Potere! Tutto quel cerimoniale sottintendeva potere, forza, prestigio. Livia tremava d'eccitazione e un piano ardito si formava nella sua mente. Perciò continuò a guardare l'uomo bianco con dolorosa attenzione, prendendo nota d'ogni dettaglio del suo aspetto. Era alto, in altezza e in robustezza era superato da pochissimi di quei neri giganteschi. Si muoveva con la scioltezza di una grossa pantera. Quando la luce del fuoco si rifletteva nei suoi occhi azzurri, essi bruciavano come fuochi cerulei. Ai piedi portava sandali affibbiati al ginocchio. Dall'ampia cintura pendeva una spada entro un fodero di cuoio. Il suo aspetto era strano, poco familiare. Livia non aveva mai visto uomini simili a lui, ma non fece nessuno sforzo per classificarne la posizione fra le razze dell'umanità. Per lei era più che sufficiente che avesse la pelle bianca. Le ore trascorsero e gradualmente il baccano della festa diminuì, quando donne e uomini cominciarono a sprofondare nel sonno degli ubriachi. Infine, Bayui si sollevò barcollando e alzò le mani, fu quasi un segno di resa nella gara chi mangiava e beveva di più, anziché di cessazione dei festeggiamenti. Poi inciampò e dovette essere sorretto dai suoi guerrieri, i quali lo riportarono alla sua capanna. L'uomo bianco si alzò, senza mostrare di subire gli effetti dell'enorme quantità di birra che aveva ingurgitato, e fu scortato nella capanna degli ospiti da pochi sottocapi Bacala che ancora riuscivano a reggersi in piedi. Scomparve dentro la capanna e Livia notò che una decina dei suoi lancieri prendeva posizione attorno al basso edificio con le lance pronte. Evidentemente lo straniero non si fidava molto dell'amicizia di Bayui. Livia osservò il villaggio che sembrava trasformato in una nera notte del giudizio, con le sue strade tortuose piene di forme ubriache. Sapeva che vari uomini nel pieno possesso delle loro facoltà sorvegliavano il perimetro esterno, ma gli unici uomini ancora svegli che vide all'interno del villaggio erano i lancieri che sorvegliavano la capanna dello straniero, e alcuni di loro cominciavano già a ciondolare il capo ed appoggiarsi alle lance. Con il cuore che le batteva a martello, si avviò verso il retro della capanna prigione e ne varcò la soglia, oltrepassando l'uomo che Bayui aveva messo di guardia e che adesso era intento a russare. Come un'ombra d'avorio scivolò nello spazio fra la sua capanna e quella occupata dallo straniero. Strisciando a quattro zampe raggiunse la parte posteriore dell'edificio. Un nero gigantesco era seduto contro la parete, ma la sua testa, adorna di piume, era reclinata fra i ginocchi. Lei lo sorpassò strisciando e raggiunse la parete della capanna. L'avevano tenuta prigioniera all'inizio proprio in quella capanna e una stretta apertura della parete, invisibile all'interno poiché era nascosta dietro una stuoia, rappresentava la sua timida e patetica speranza di fuga. Trovò l'apertura, si girò su un fianco e contorse il corpo snello per penetrare all'interno, spingendo via la stuoia. Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet. E scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. La luce dei fuochi illuminava debolmente l'interno. Nell'attimo in cui scostò la stuoia, udì un'imprecazione a bassa voce e sentì una mano che l'afferrava per i capelli. Fu trascinata di peso entro l'apertura e sollevata in piedi. Barcollando per la sorpresa, raccolse quel po' di coraggio che le rimaneva e si scostò dagli occhi le trecce scompigliate per fissare in volto l'uomo bianco che torreggiava su di lei. e vide che i suoi lineamenti scuri e segnati dalle cicatrici erano pieni di meraviglia. Teneva in pugno la spada snudata e i suoi occhi brillavano come fuochi. Ma non si poteva capire se brillassero per la collera, il sospetto o la sorpresa. E parlò in una lingua che Livia non riuscì a comprendere. Una lingua che non aveva i suoni gutturali degli idiomi dei neri, ma che non assomigliava nemmeno a quelle dei civili. «Oh, vi prego!» supplicò la ragazza. «Non così forte! Loro sentiranno!» «Chi sei?» chiese l'uomo parlando ofiriano con un accento barbaro. «Per Crom, non avrei mai creduto di trovare una ragazza bianca in questa terra infernale!» «Il mio nome è Livia!» disse lei. «Sono prigioniera di Bayui. Ascoltatemi, vi prego! Ascoltatemi! Non posso rimanere a lungo! Devo ritornare prima che si accorgano che manco dalla capanna!» Si interruppe con un singhiozzo. Poi continuò. «Mio fratello... mio fratello era Teteles ed eravamo della casa di Celcus, scienziati e nobili di Ophir. Grazie a uno speciale permesso del re di Stygia, mio fratello ebbe la possibilità di recarsi a Keshatta, la città dei maghi, per studiare le loro arti. E io lo accompagnai. Era solo un ragazzo, più giovane di me.» La sua voce si spense. Lo straniero non disse nulla. Rimase a guardarla con occhi ardenti, il volto aggrottato e imperscrutabile. C'era qualcosa in lui di selvaggio ed indomabile che la terrorizzava e la rendeva incerta e nervosa. «I cusciti neri fecero una scorreria a Keshatta», continuò lei in fretta. «Noi ci stavamo avvicinando alla città con una carovana di cammelli. Le nostre guardie fuggirono e gli scorridori ci portarono via con loro. Non ci fecero alcun male e ci dissero che avrebbero parlamentato con gli stigiani per ottenere un riscatto. Ma uno dei capi desiderava tutto il riscatto per sé e con i suoi seguaci ci rapì una notte dall'accampamento e fuggì con noi, lontano, verso il meridione, fino alle frontiere di Kush. Qui furono assaliti e fatti a pezzi da una banda di predoni Bacala. Teteles e io fummo trascinati in un covo di animali.» Scoppiò in singhiozzi convulsi. «Stamattina mio fratello è stato mutilato e massacrato davanti ai miei occhi.» Si interruppe. Per un attimo, al ricordo dell'accaduto, fu come cieca. «Hanno dato il suo corpo in pasto agli sciacalli. Per quanto tempo io sia rimasta svenuta, non so.» Non trovando altre parole, sollevò gli occhi verso il volto aggrottato dello straniero. Una furia pazza l'assalì. Alzò i pugni e batté futilmente contro il petto possente dell'uomo, il quale se ne preoccupò come si sarebbe preoccupato del ronzio di una mosca. «Come puoi startene qui come un bruto silenzioso?» sibilò la ragazza in un sussurro spettrale. «Anche tu sei solo un animale come gli altri. Ammitra, una volta credevo che ci fosse onore negli uomini. Adesso so che ciascuno ha il suo prezzo. Tu che cosa ne sai tu dell'onore o della misericordia o della decenza? Sei un barbaro come gli altri. Solo la tua pelle è bianca. La tua anima è nera come la loro. Non ti importa che un uomo della tua razza sia stato vilmente assassinato da questi cani? Che io sia la loro schiava? Benissimo.» Si scostò da lui. «Ti darò una ricompensa», disse, strappandosi la tunica dal seno d'avorio. «Non sono bella. Non sono più desiderabile delle ragazze di qui. Non sono un premio prezioso per cui versare del sangue. Una vergine di pelle bianca non ti pare una ricompensa degna di un'uccisione? Uccidi quel cane di Bayui. Fammi vedere la sua testa maledetta rotolare nella polvere insanguinata. Uccidilo! Uccidilo!» Si torceva le mani nell'intensità della passione. «Poi prendimi e fai di me quello che vuoi. Sarò la tua schiava.» L'uomo non parlò per qualche istante. Rimase ritto come una figura gigantesca, pensosa, di massacro e distruzione, con le mani nella cintura. «Parli come se tu fossi libera di concederti a tuo piacere», disse infine. come se il dono del tuo corpo avesse il potere di rovesciare gli imperi. Perché dovrei uccidere Baiyui per averti? Le donne sono a buon mercato come le banane in questa terra e la loro disponibilità conta ancora meno. Ti valuti troppo. Se ti volessi, non avrei bisogno di combattere contro Baiyui per averti e lui preferirebbe darti a me piuttosto che combattermi. Livia boccheggiò. Tutta la furia l'abbandonò e la capanna roteò confusamente davanti ai suoi occhi. Barcollò e cadde come un mucchio di stracci su un letto di cuscini. Amarezza e stupore le schiacciarono l'anima quando si rese conto che la sua situazione di completa impotenza le veniva brutalmente rinfacciata. La mente umana si attacca inconsciamente a valori e ideali familiari, anche in circostanze e situazioni straordinarie, ben lontane da quelle da cui quei valori dipendono. Nonostante tutto ciò che aveva provato, aveva istintivamente supposto che il consenso della donna fosse la condizione principale del gioco che si era proposta di attuare. Era sconvolta dalla constatazione che nulla dipendeva da lei. Non poteva muovere gli uomini come pedine in un gioco. Era lei stessa la pedina inerme. Capisco l'assurdità di supporre che un uomo, in quest'angolo del mondo, possa rispettare le regole e le consuetudini esistenti in un altro angolo. Mormorò debolmente, appena consapevole di ciò che diceva, che in realtà era solo la cornice verbale dei pensieri che l'opprimevano. Inebetita dalla recente svolta del destino, rimase immobile finché le dita d'acciaio del barbaro non si chiusero sulla sua spalla per rimetterla di nuovo in piedi. «Hai detto che sono un barbaro», disse lui brusco. «E questo è vero, grazie a Crom. Se tu avessi avuto come scorta qualche uomo delle terre selvagge, invece che alcuni rammolliti uomini civili, non saresti schiava di un porco stanotte». «Io sono Conan, un cimmero, e vivo della mia spada. Ma non sono un cane disposto a lasciare una donna nelle mani di un selvaggio. E anche se la tua razza mi chiama ladrone, non ho mai amato una donna senza il suo consenso. Le usanze differiscono nelle varie regioni, ma se un uomo è abbastanza forte, può applicare alcune delle sue usanze native in qualsiasi posto. E nessuno mi ha mai definito debole». Se tu fossi vecchia e brutta come gli avvoltoi del diavolo, ti avrei ugualmente strappata a Baiyui solo a causa della tua razza. Ma tu sei giovane e bella, e io ho guardato le donne del posto fino a farmi venire il volta stomaco. Accetterò il tuo gioco, semplicemente perché alcuni dei tuoi istinti corrispondono ai miei. Torna alla tua capanna. Baiyui è troppo ubriaco per venire da te stanotte, e io farò in modo che sia occupato domani. E domani notte sarà il letto di Conan quello che riscalderai, non quello di Baiyui. Come potrai farlo? Livia tremava di emozioni contrastanti. Sono tutti qui i tuoi guerrieri? Sono sufficienti, brontolò lui. Bamula, tutti quanti, e allattati al seno della guerra. Sono venuti qui a richiesta di Baiyui. Vuole che mi unisca a lui per un assalto a Ihihi. Oggi abbiamo fatto Baldoria. Domani terremo consiglio. Quando avrò finito con lui, terrà consiglio all'inferno. Romperai la tregua? Le tregue in questa terra sono fatte per essere infrante, rispose con aria sinistra. Lui vuole rompere la tregua con Ihihi e dopo aver saccheggiato la città insieme con me, mi spazzerebbe via la prima volta che mi trovasse fuori guardia. Ciò che sarebbe uno sporco tradimento in qualsiasi altro paese, qui è profonda saggezza. Non mi sarei fatto strada con le mie mani fino a diventare comandante dei Bamula se non avessi imparato le lezioni che ci insegna la terra dei neri. Adesso torna alla tua capanna e dormi, sapendo che non conservi la tua bellezza per Baiyui, bensì per Conan. Pronto, ufficio soluzioni esagerate. Salve, sono Luca Soldoni, consulente finanziario. Chiamo perché devo fare i conti con le tasse. Il carico fiscale è esagerato. Alleggeriscilo con i buoni fasto ticket Restaurant Edred. Sono deducibili anche per una partita IVA come te. E scarichi tutto con una fattura unica. E poi sono spendibili in tutta Italia anche per la spesa e il food delivery. Vai su ticketrestaurant.it. Esageratamente Edred. Livia osservava attraverso la fessura nella parete di bambù, con i nervi tesi, tremante. Per tutto il giorno, fin dal momento in cui si erano svegliati, ancora intontiti per le baldorie della notte precedente, gli uomini avevano preparato i festeggiamenti per la sera. Per tutto il giorno Conan il Cimmero era rimasto seduto nella capanna di Baiui, ma Livia non poteva sapere che cosa fosse successo fra loro. Si era sforzata di nascondere la propria eccitazione all'unica persona che entrasse nella sua capanna, la vendicativa ragazza della tribù che le portava da bere e da mangiare. Ma quella ragazza era troppo intontita dalle libagioni della notte precedente per accorgersi della differenza nel comportamento della prigioniera. Adesso la notte era scesa di nuovo. I fuochi illuminavano il villaggio e i capi avevano lasciato la capanna del re per accoccolarsi nella spianata fra le capanne, a banchettare e tenere l'ultimo cerimonioso consiglio. Questa volta non scorreva birra a profusione. Livia notò che i Bamula, come per caso, convergevano verso il cerchio dove sedevano i capi. Scorse Baiui e, seduto di rimpetto a lui, davanti al vasellame pieno di cibo, Conan che rideva e chiacchierava con il gigantesco Aya, capo dei guerrieri di Baiui. Il Cimmero era intento a spolpare un grande osso di bue e, mentre lo osservava, vide che si lanciava un'occhiata alle spalle. Come se fosse stato il segnale di cui erano in attesa, tutti i Bamula si voltarono verso il loro capo. Conan si alzò, sempre sorridendo, come se volesse prendere qualcosa dal pentolone più vicino. Poi, rapido come un felino, vibrò ad Aya un colpo terribile con il pesante osso di bue. Il capo dei guerrieri Bacala cadde in avanti con il cranio spaccato e subito un grido spaventoso si innalzò al cielo, mentre i Bamula si lanciavano all'attacco come pantere assetate di sangue. I pentoloni si rovesciarono, ustionando le donne accovacciate. Le pareti di bambù si piegarono sotto l'urlo di corpi umani. Grida di sofferenza squarciarono la notte e su tutto si alzarono gli esultanti hi hi hi dei Bamula impazziti e le punte arrossate delle lance illuminate dal chiarore dei fuochi. Bacala era un manicomio. L'azione degli invasori aveva paralizzato gli sfortunati abitanti del villaggio a causa della sua inaspettata rapidità. A nessuno era venuto in mente che gli ospiti potessero sferrare un attacco. In gran parte le lance erano ancora appese nelle capanne. Gran parte dei guerrieri era già ubriaca. La caduta di Aya fu il segnale che fece conficcare le luccicanti lame dei Bamula in centinaia di corpi che non sospettavano nulla. E dopo fu il massacro. Dal suo buco d'osservazione, Livia rimase impietrita, bianca come una statua, i riccioli dorati tirati indietro e tenuti fermi alle tempie dalle mani rigidite. Aveva gli occhi dilatati, il suo corpo era di sasso. Le grida di sofferenza e di rabbia colpivano i suoi nervi dolorosamente tesi con la forza di colpi di maglio. Le figure che si contorcevano menando fendenti diventavano confuse davanti ai suoi occhi, poi ridiventavano orridamente distinte. Vide lance conficcarsi in neri corpi tremanti, schizzando sangue. Vide mazze alzarsi e ricadere con forza brutale su teste umane. Tizzoni vennero scalciati via dai fuochi in una pioggia di scintille. Tetti di paglia presero fuoco e fiammeggiarono. Un nuovo grido di sofferenza si distingueva fra gli altri, quello di gente scagliata capofitto nei braceri ardenti in cui le capanne si erano trasformate. Il puzzo di carne bruciata cominciò ad ammorbare l'aria, già piena dell'odore di sudore e di sangue. I nervi sovraffaticati di Livia cedettero. Proruppe in acute grida di tormento che si persero nel ruggito delle fiamme del massacro. Si percosse le tempie con le mani strette a pugno. La sua ragione vacillò, mutando le grida in scoppi ancor più spaventosi di risa isteriche. Invano cercò di ricordarsi che erano suoi nemici coloro che morivano in modo così orribile, che questo era ciò che aveva pazzamente sperato e per cui aveva complottato, che lo spaventoso sacrificio era la giusta pena per i torti fatti a lei e ai suoi. Un terrore frenetico la stringeva in una morsa irragionevole. Non provava alcuna pietà per le vittime che morivano a mucchi sotto quelle lance gocciolanti di sangue. La sua unica emozione era una folle, cieca, irragionevole paura. Vide Conan che con la sua pelle bianca faceva contrasto in mezzo ai neri e vide la sua spada alzarsi e uomini cadere attorno a lui. Un gruppetto poneva ancora resistenza vicino a un fuoco e Livia scorse una figura grassa che si agitava in mezzo al gruppo. Conan si tuffò nella mischia e fu nascosto alla vista di lei a causa dei corpi neri in movimento. Dal mucchio si alzò uno strillo acuto, insopportabile. La calca si fendette per un attimo e lei ebbe la terribile visione di un corpo grasso che barcollava, ruscellando sangue. Poi il gruppetto si richiuse e una lama lampeggiò fra i corpi come un raggio di luce nel crepuscolo. Si alzò un clamore bestiale, terrificante nella sua primitiva esultanza. Conan si fece strada nel mucchio. Avanzò verso la capanna entro la quale la ragazza era accovacciata e in mano teneva qualcosa. La luce del fuoco brillò sulla testa appena mozzata di Reba Yui. Gli occhi neri, adesso vitrei anziché vivaci, erano girati verso l'alto, mostrando solo il bianco. La mascella pendeva inerte come in una smorfia di idiozia. Goccioline scarlatte lasciavano una scia sul terreno. Livia arretrò con un gemito. Conan aveva pagato il suo prezzo e veniva a richiederla, portando con sé il pegno del suo pagamento. L'avrebbe afferrata con le dita insanguinate, le avrebbe premuto le labbra con le sue, ancora ansanti per il massacro. A quel pensiero subentrò il delirio. Con un grido, Livia si mise a correre per la capanna, poi si gettò contro la porta posteriore spalancandola. Si lanciò all'aperto, simile a un bianco fantasma svolazzante in un reame di ombre nere e fiamme rossastre. Un oscuro istinto la guidò al recinto dove erano chiusi i cavalli. Un guerriero abbassava proprio allora la sbarra che separava il recinto dei cavalli da quello principale e gridò di stupore quando lei gli passò davanti in un lampo. Allungò le mani per afferrarla e agguantò il collo della sua tunica. Con uno strattone la donna si divincolò, abbandonando l'indumento. I cavalli sbuffarono e si lanciarono all'aperto, facendo rotolare il guerriero nella polvere. Erano animali snelli e robusti, di razza cuscita, già frenetici per le fiamme e l'odore del sangue. Alla cieca, Livia afferrò una criniera svolazzante, fu sollevata di scatto da terra, ritornò con i piedi al suolo, balzò in aria e si arrampicò sulla groppa del cavallo. Pazzo di paura, il branco si tuffò in mezzo ai fuochi e i piccoli zoccoli provocarono una pioggia di scintille. I neri stupiti ebbero una fugace visione della ragazza nuda attaccata alla criniera di un animale che correva veloce come il venticello che agitava i capelli biondi della sua amazzone. Poi il cavallo superò come un fulmine la palizzata, si lanciò in un salto mozzafiato e sparì nella notte. Ufficio soluzioni esagerate. Salve, sono Luca Soldoni, consulente finanziario. Chiamo perché devo fare i conti con le tasse. Il carico fiscale è esagerato. Alleggeriscilo con i buoni fasto ticket Restaurant Edred. Sono deducibili anche per una partita IVA come te. E scarichi tutto con una fattura unica. E poi sono spendibili in tutta Italia anche per la spesa e il food delivery. Vai su ticketrestaurant.it. Esageratamente Edred. Livia non poteva nemmeno tentare di guidare la cavalcatura e nemmeno sentiva la necessità di farlo. Le grida e i bagliori dei fuochi si affievolivano alle sue spalle. Il vento le agitava i capelli e le accarezzava il corpo nudo. Si rendeva conto dell'assoluta necessità di tenersi afferrata alla criniera svolazzante e di cavalcare, oltre il limite del mondo, lontano dalle sofferenze e dagli orrori. E per ore il cavallo continuò la sua corsa. Finché, in cima a una cresta illuminata dalle stelle, inciampò e sbalzò la sua amazzone. La ragazza atterrò su un terreno coperto di soffice erba e rimase per qualche istante semistordita, accorgendosi vagamente che il cavallo si allontanava da lei. Quando si rimise barcollando in piedi, fu colpita per prima cosa dal silenzio. Era quasi una cosa tangibile, soffice, scuro velluto. Dopo l'incessante fragore dei corni e dei tamburi barbarici che l'avevano fatta impazzire per giorni. Fissò le grandi stelle bianche che si ammassavano nel cielo nero. Non c'era la luna, ma la luce delle stelle illuminava la zona, anche se in modo illusorio, con inaspettati mucchi d'ombre. Si trovava su un pianoro erboso che declinava dolcemente, soffice come il velluto sotto le stelle. Lontano, da una parte, scorse una cupa e fitta linea d'alberi che segnava l'inizio della foresta lontana. C'erano solo la notte e una calma sonnolenta e una debole brezza che soffiava fra le stelle. La landa sembrava ampia e assonnata. La tiepida carezza della brezza le ricordò la sua nudità e lei si agitò a disagio, coprendosi il corpo con le mani. Poi sentì la malinconia della notte e la solitudine completa. Era sola. Era sulla sommità di quella landa e non c'era nulla da vedere. Nulla, tranne la notte e il mormorio del vento. Fu improvvisamente lieta della notte e della solitudine. Non c'era nessuno a minacciarla o ad afferrarla con mani rude e violente. Guardò davanti a sé e vide il pendio scivolare in un'ampia vallata. Le fronde ondeggiavano rigogliose e la luce delle stelle si rifletteva biancastra su parecchi piccoli oggetti sparpagliati nella valle. Pensò che fossero grandi fiori bianchi e questo pensiero fece sorgere in lei un ricordo indistinto. Le venne in mente una valle di cui i neri parlavano con terrore. Una valle in cui erano fuggite le giovani donne di una razza dalla pelle bruna che aveva abitato quella terra prima che arrivassero gli antenati dei Bacala. Laggiù, si diceva, esse si erano mutate in fiori bianchi. Erano state così trasformate dagli antichi dei perché sfuggissero ai rapitori. Laggiù nessun nativo osava recarsi. Ma Livia non condivideva questi timori. Aveva disceso i pendii erbosi che erano soffici come velluto sotto i suoi piedi delicati. Avrebbe dimorato fra i bianchi fiori ciondolanti e nessun uomo sarebbe arrivato a stendere le sue rudi mani su di lei. Conan aveva detto che i patti sono fatti per essere infranti. Lei avrebbe infranto il suo patto con lui. Sarebbe andata nella valle delle donne perdute. Avrebbe perso se stessa nella solitudine e nella tranquillità. E mentre quei pensieri sognanti e smozzicati fluttuavano dentro di lei, già discendeva il lieve pendio e le pendici della valle si innalzavano sempre di più da ambo i lati sopra di lei. Ma così lieve era il pendio che quando si trovò in fondo alla valle non ebbe che l'impressione di essere imprigionata da pareti scoscese. Tutta attorno a lei fluttuava un mare d'ombre e grandi fiori bianchi annuivano e sussurravano verso di lei. Vagò a caso, dividendo le fronde con le piccole mani, ascoltando il mormorio del vento fra le foglie, provando un piacere fanciullesco per il gorgoglio di un ruscello invisibile. Si muoveva come in un sogno, nella stretta di una strana irrealtà. Un solo pensiero si riaffacciava con continuità. Qui era al sicuro dalla brutalità degli uomini. Pianse, ma erano lacrime di gioia. Giacque distesa sull'erba e afferrò le zolle erbose come se volesse stringersi al petto quel rifugio appena trovato e tenerselo per sempre. Raccolse le corolle dei fiori e ne confezionò una corona per i suoi riccioli dorati. Il loro profumo era in carattere con le altre cose della valle, sognante, sottile, incantatore. E così giunse in una radura al centro della valle e lì scorse una grande pietra squadrata da mani umane e adorna di felci, fiori e catene di boccioli. E mentre era ferma a osservarla, attorno a lei ci fu vita e movimento. Voltandosi vide alcune sagome che avanzavano caute dalle ombre più dense, snelle donne brune, sottili, nude, con fiori nei capelli neri come la notte. Come creature di sogno si fecero attorno a lei senza parlare. Ma all'improvviso Livia fu colta dal terrore quando le guardò negli occhi. Quegli occhi erano luminosi, risplendenti alla luce delle stelle, ma non erano occhi umani. I corpi erano umani, ma nelle loro anime era stato prodotto un mutamento che si rifletteva negli occhi rilucenti. La paura discese su Livia come un'ondata. Il serpente sollevava la sua orribile testa in quel paradiso che aveva appena scoperto, ma non poteva fuggire. Le snelle donne brune erano tutte attorno a lei. Una, più graziosa delle altre, venne silenziosamente vicino alla ragazza tremante e la circondò con le brune braccia delicate. Il suo alito era profumato dello stesso profumo che emanava dai bianchi fiori che ondeggiavano alla luce delle stelle. Le sue labbra premettero quelle di Livia in un lungo, terribile bacio. La ragazza sentì un'ondata di freddo percorrerle le vene. Le sue membra si intorpidirono. Come una bianca statua di marmo, rimase fra le braccia della sua catturatrice, incapace di parola o movimento. Mani svelte e delicate la sollevarono e la posarono sulla pietra altare, in mezzo a un letto di fiori. Le donne brune unirono le mani a formare un cerchio e si mossero flessuosamente attorno all'altare, danzando una sconosciuta danza tenebrosa. Mai il sole o la luna avevano guardato una simile danza e le grandi stelle bianche divennero ancora più bianche e brillarono di una luce ancora più luminosa, come se la sua tenebrosa stregoneria facesse risuonare entità cosmiche ed elementari. E un canto basso si alzò, ancor meno umano del gorgoglio lontano del ruscello. Un mormorio di voci, simile al sussurro dei fiori che ondeggiavano sotto le stelle. Livia giaceva cosciente, ma incapace di qualsiasi movimento. Non le venne l'idea di mettere in dubbio la propria sanità mentale. Non cercava di ragionare o analizzare. Esisteva, e quegli strani esseri che danzavano attorno a lei esistevano. Una vacua constatazione dell'esistenza, un riconoscimento della realtà dell'incubo che la possedeva, mentre giaceva a guardare disperatamente il cielo ammassato di stelle, dal quale, in qualche modo lo sapeva, con una coscienza più che umana, qualche cosa sarebbe scesa per lei, come era scesa molto tempo prima per prendere quelle donne nude dalla pelle bruna e trasformarle negli esseri senza anima che adesso erano diventate. Dapprima, molto in alto, vide un punto nero fra le stelle, che crebbe espandendosi. Le si avvicinò, si tramutò in un pipistrello e continuò a crescere, anche se la sua forma non subì ulteriori mutamenti. Si librò su di lei in mezzo alle stelle, poi scese come una piuma verso la terra, con le grandi ali spalancate su di lei. E Livia fu coperta dalla sua ombra. E tutto attorno a lei il canto crebbe di intensità, diventando una dolce peana di gioia inanimata, un benvenuto a un dio che giungeva a reclamare un nuovo sacrificio, fresco e roseo come un fiore nella rugiada dell'alba. Ora l'essere incombeva direttamente su di lei e l'anima della ragazza si strinse e divenne gelida e piccola quella vista. Le ali assomigliavano a quelle di un pipistrello, ma il corpo e la faccia indistinta che la fissava non assomigliavano ad alcuna creatura del mare, della terra o dell'aria. Comprese di osservare l'orrore insuperabile, la nera cosmica vergogna nata dagli abissi notturni che stanno al di là dei più pazzi sogni di un folle. Spezzando gli invisibili legami che la tenevano paralizzata, strillò orribilmente. Al suo grido fece eco un urlo basso e minaccioso. Udì il rumore di piedi in fuga. Tutto attorno a lei ci fu un movimento come d'acque vorticanti, i fiori bianchi si agitarono pazzamente e le donne brune sparirono. Su di lei incombeva la grande ombra nera, ma vide anche un'alta figura bianca, con piume che si agitavano contro le stelle precipitarsi verso di lei. Con un urlo inarticolato e feroce, il barbaro fece un balzo a mezz'aria, menando un fendente verso l'alto con la spada che fiammeggiava alla luce delle stelle. Le grandi ali nere si alzarono e ricaddero. Livia, paralizzata dall'orrore, vide che il cimbero veniva avviluppato nell'ombra nera che adesso incombeva su di lui. Il respiro dell'uomo era diventato affannoso, i piedi battevano il terreno, schiacciando nella polvere i fiori bianchi. Il rumore lacerante dei suoi colpi echeggiava nella notte. Era squassato qua e là, come un topo fra le fauci di un mastino. Il sangue sgocciolava abbondantemente sulle zolle, mescolandosi ai petali bianchi che giacevano per terra come un tappeto. E poi la ragazza, osservando la diabolica battaglia come in un incubo, vide l'essere dalle ali nere ondeggiare e barcollare a mezz'aria. Ci fu un rumore d'ali ferite e il mostro si liberò e volteggiò in alto, per poi mescolarsi alle stelle e svanire in mezzo ad esse. Il vincitore barcollò stordito, con la spada in pugno, le gambe divaricate, lo sguardo fisso in alto, meravigliato per la vittoria, ma pronto a riprendere la spettrale battaglia. Qualche attimo più tardi, Conan si avvicinò all'altare ansimando, perdendo sangue a ogni passo. Il petto massiccio si sollevava, lucido di sudore. Il sangue gli ruscellava lungo le braccia, sul collo e sulle spalle. Quando la toccò, l'incantesimo che incatenava la ragazza si ruppe. Livia si alzò a sedere e si lasciò scivolare dall'altare, indietreggiando davanti alla mano del cimmero. Conan si appoggiò alla pietra guardandola e lei si rannicchiò ai suoi piedi. «Gli uomini ti hanno visto uscire a cavallo dal villaggio», disse. «Ti ho seguita non appena ho potuto e ho trovato la tua pista, anche se non era facile seguirla a lume di torcia. Ti ho seguita fin dove il cavallo ti ha disarcionata e anche se le torce erano ormai finite e non sono riuscito a trovare le impronte dei tuoi piedi sulle zolle, ero sicuro che fossi scesa nella valle. I miei uomini non mi volevano seguire, perciò sono sceso da solo a piedi. Che valle di demoni è questa? Che cos'era quell'essere?» «Un dio», mormorò lei. «Un dio venuto da lontano e da epoche passate». «Un demone delle tenebre esterne», brontolò lui. «Oh, sono tutt'altro che rari. Se ne stanno acquattati, numerosi come pulci, al di fuori della cintura di luce che circonda questo mondo. Ho sentito i saggi della Zamora che ne parlavano. Alcuni trovano il modo di arrivare sulla terra, ma quando lo fanno devono assumere una forma terrena e coprirsi di qualche genere di carne. Un uomo come me con una spada può affrontare qualsiasi tipo di zanne e artigli, infernali o terrestri. Vieni, i miei uomini mi aspettano oltre la cresta della valle». Livia restò accovacciata e immobile, incapace di trovare parole, mentre lui la guardava accigliato. «Sono scappata da te», disse poi la ragazza. «Pensavo di ingannarti. Non avrei mantenuto la promessa che ti avevo fatto. Ero tua in base al patto che avevamo stipulato, ma sarei scappata da te se avessi potuto. Puniscimi come vuoi». Conan scosse il sudore e il sangue dai capelli e rinfonderò la spada. «Alzati», brontolò. «Era un patto stupido quello che ho fatto. Non rimpiango quel bastardo nero di Bayui, ma tu non sei una ragazza che si possa comprare e vendere. I costumi degli uomini variano nei diversi paesi, ma un uomo non deve essere un porco in qualsiasi luogo si trovi. Pensandoci bene, mi sono reso conto che costringerti a mantenere il patto sarebbe stato come forzarti. E poi, tu non sei abbastanza dura per questo paese. Sei una figlia delle città, dei libri, delle maniere civili, e non ne hai colpa, ma moriresti in fretta se seguissi il mio tipo di vita. Una ragazza morta non mi sarebbe di nessuna utilità. Ti condurrò alla frontiera stigiana. Gli stigiani ti rimanderanno a casa nell'Ofir». Lei lo guardò come se non avesse ben capito. «A casa», ripeté meccanicamente. «A casa, Ofir, la mia gente, città, torri, pace, la mia casa». All'improvviso le lacrime le sgorgarono dagli occhi e cadde in ginocchio, abbracciandogli le gambe. «Per Crom, ragazza mia», brontolò Conan impacciato. «Piantala. Finirai col pensare che ti faccio un favore a buttarti fuori da questo paese. Non ti ho appena spiegato che non sei la donna adatta per il condottiero dei Bamula». Fine. La locanda della tormenta è stata lieta di presentare Conan, la valle delle donne perdute. Grazie per l'ascolto.